Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ancora un argomento, diciamo così, estivo da trattare insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre e al suo presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico e un saluto a tutti. Due giorni fa parlavamo di macchine a noleggio nel corso delle vacanze. Le vacanze si fanno magari in Italia oppure in Europa e chi gira da qualche anno sa che ad esempio utilizzare il telefono dall'Europa verso l'Italia o comunque tra un paese e l'altro è molto più costoso. Adesso è sempre più diffuso l'utilizzo del telefono, dello smartphone per internet. C'è un'importante novità entrata in vigore proprio con il mese di luglio, quindi da pochissimi giorni, che riguarda il traffico dati e anche le comunicazioni SMS e telefonate. Di cosa si tratta, Carlo? Sì, finalmente possiamo dire una buona notizia che riguarda proprio gli utenti che normalmente si spostano oltre il confine, fuori dall'Italia, ma nell'ambito della comunità europea, e finalmente possiamo dire che navigare su internet e soprattutto per chi ha i telefonini come hai detto te e si trova quindi a dover andare in roaming, cioè migrare verso altri operatori che sono presenti negli stati membri in cui uno va in vacanza, certamente c'è un calo delle tariffe di circa il 50%. Perché è un dato importante? Perché in molti casi che riguardano proprio le vacanze e le attività che svolge lo sportello vacanza informata, che normalmente capita in questo periodo, ci capitano di persone che vanno all'estero anche per ferie soprattutto e si dimenticano di disabilitare la connessione dati sui cellulari, migrano di operatore, vanno in roaming e quindi fino ad oggi cosa capitava? Che poi al rientro dell'Italia si trovavano anche bollette da centinaia d'euro perché il cellulare rimanendo collegato 24 ore su 24 alle tariffe non più quelle che regolamentate come queste che saranno del 1 luglio, ma libere sostanzialmente, quindi sottoposte a quello che sono i costi della compagnia del paese, si trovavano nella bolletta debiti incredibili o addirittura l'azzeramento della prepagata durante il periodo delle vacanze. Eh sì, passando il confine praticamente si modifica il contratto, si modificano le condizioni di contratto. Hai detto dimezzamento, esattamente si tratta di 45 centesimi che erano prima fino al 30 giugno, sono diventati 20 centesimi per ogni megabyte di connessione. Credo però e spero che la tendenza sia effettivamente a rendere l'Unione Europea veramente tale, cioè che ci sia un'unica tariffa uguale per tutti dal circolo polare Artico fino a Lampedusa. Ah, certamente, spero che l'orientamento sia proprio orientato, per usare un gioco di parole, verso quello che hai detto te. Certamente bisogna tenere presente che parliamo di comunità europea, per cui se una persona va al Mar Rosso oppure va in Marocco, certamente esce da quello che è questo mercato, questo ambito territoriale di regolamentazione a cui poter essere tranquilli o diciamo avere un costo sicuro per le proprie esigenze e la propria navigazione. Certo è che diminuire del 50% le tariffe è certamente un passo molto importante che sicuramente ha tenuto conto veramente di quelle che sono le esigenze un po' di tutti i cittadini. È anche vero che ci sono altre iniziative molto importanti, che è quello di dal 1 luglio di andare verso un abbassamento delle tariffe, perché comunque oggi ricordiamo che anche chi si trova fuori dall'Italia ma nell'ambito della comunità europea riceve una telefonata dal nostro paese, quando uno risponde comunque paga. E soprattutto c'è un dato molto importante che è quello come dal 2007 ad oggi sostanzialmente le tariffe comunque in roaming sono calate complessivamente dal 1 luglio di circa il 90%. Eh sì, teniamo conto che solo qualche anno fa la diffusione degli apparecchi, dei cellulari, solo qualche anno fa non esistevano i tablet, non esistevano gli smartphone, quindi è chiaro che le compagnie approfittavano del fatto che pochi utilizzassero appunto il telefono da estero su estero. Adesso invece la cosa è talmente diffusa che mantenere tariffe diverse a seconda della nazione o della frontiera davvero sembrerebbe assurdo, soprattutto in quella che si chiama appunto mercato comune, mercato unico, comunità economica europea. Sì, io dico molte volte, per fortuna c'è la comunità europea che con queste iniziative costringono i paesi un po' a recepirle, perché poi scopriamo che di fatto l'Italia è sempre uno degli ultimi paesi a doverlo fare. È anche vero che queste iniziative certamente sono iniziative volte a una maggiore tutela del mercato, ed è giusto che il mercato inteso come comunità deve essere sostanzialmente uguale per tutti. In merito a quelle che erano le tariffe applicate da ogni paese, io sono anche convinto che fino ad oggi c'è stato anche un meccanismo che abbastanza rimpinguato le tasche di queste compagnie, perché pochi avevano l'esperienza e si ricordavano di farlo, di disconnettere il traffico dati quando oltrepassavano i confini, perché il meccanismo del roaming va sostanzialmente in automatico, e pochi magari ci pensavano, se non quando si trovavano senza credito o degli addebiti mostruosi, perché ha avuto la sventura di avere l'addebito in conto corrente e l'apparecchio collegato per 24 ore su 24. Tutto questo certamente è stato qualcuno ne ha approfittato molto. Queste iniziative, soprattutto dal 1 luglio, questa nuova iniziativa, questa nuova normativa, aiuterà veramente i consumatori ad essere maggiormente salvaguardati rispetto a un mercato che sicuramente è in piena evoluzione. E allora un'estate, almeno da questo punto di vista, un po' più leggera, in attesa poi che ci sia davvero l'uniformità e che ci sia un'unica tariffa e una concorrenza europea anche tra tutte le compagnie, che comunque sono già delle multinazionali. Ringraziamo il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini, ci ritroviamo la settimana prossima con altri due argomenti. Buon proseguimento. Ringrazio te, Mirko, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.